Buonasera e benvenute a tutte e a tutti. Ci fa sempre piacere vedere tanto pubblico alle nostre iniziative che sono così numerose e anche nuovo pubblico che non ci capita di vedere tutti i giorni e che vengono alle nostre iniziative e anche a conoscere insomma quello che facciamo e quello che fa la Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta. Io vi porto soltanto brevemente i saluti della direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, e ringrazio, io vorrei ringraziare l'autrice per averci portato questo libro in questa serata, per averci anche portato della musica che per noi insomma non è così diciamo consueto e allieterà diciamo questa serata. Anzi, le vorrei ringraziare, devo leggere i nomi, scusate, perché Mariana Lazzarini e Elena Benetello, che ringrazio di essersi messe a disposizione, e chiaramente grazie all'Istituto Musicale per questa presenza musicale. Io, prima di lasciare la parola, credo al dottor Galassini, che ringrazio di essere qui, poi per le presentazioni, vi ricordo soltanto i prossimi appuntamenti della biblioteca. E dicevo prima, le iniziative sono tante. Per questa sera noi abbiamo preparato alcuni libri che si possono consultare, c'è chiaramente anche il libro di questa sera da prendere in prestito, ma so che l'autrice ha portato anche delle copie, quindi le trovate alla fine della serata, vi potete rivolgere chiaramente all'autrice. Vi dicevo, la biblioteca organizza, come sapete, tante iniziative, e mercoledì ne abbiamo anche un'altra dedicata alle fiabe di primavera, un libro di Maria Paola Arso. Saremo sempre qui in questa sala, e poi un libro di storia invece per la prossima settimana, il 3 di aprile avremo un libro curato dal professor Costazza, dedicato alla Shoah, nella letteratura, nel cinema e in altri media. Ecco, questi sono i prossimi appuntamenti. Io vi lascio la parola e vi ringrazio ancora molto per questa, che sarà una bellissima serata. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, anche da parte mia, e benvenuti a questa presentazione di questo libro, La musica siamo noi. Cercheremo di capire cosa vuol dire e che significati profondi questo titolo abbia. Mi presento brevemente, sono Gianni Galassini, sono un medico, ho fatto il pediatra per tutta la vita. All'inizio della mia carriera ho svolto anche l'attività di chirurgo, e pertanto la mia formazione è sempre stata, cioè all'inizio era di tipo scientifico, pragmatico, direi organicistico proprio. Solo dopo, col passare degli anni, facendo pediatra, ho capito che era meglio non curare le malattie, non curare le otiti, le polmoniti, ma curare i bambini. E quindi necessariamente ho dovuto approcciare ad una visione un pochino più ampia, ad un approccio terapeutico di tipo olistico, cioè che tenga conto non solo della patologia, diciamo, d'organo, dell'agente patogeno o, che so io, del virus che in quel momento era protagonista, ma dell'insieme di tutto quello che è il bambino, anche perché ho capito strada facendo che molte volte il disagio dei bambini, le malattie, le sofferenze hanno origini anche lontane. La psicologia di Palo Alto ci ha insegnato che è una situazione circolare, soprattutto in ambito delle famiglie, nell'ambito diciamo di situazioni in cui la sofferenza di uno, non si sa bene come, si ripercuote su un altro. Ed è così soprattutto nei bambini, no? I bambini hanno determinate patologie, non solo di tipo psichico o di tipo emotivo, ma anche patologie organiche, e la causa magari sta lontano, sta nel fratello, nella sorella, nella mamma, nel papà, o nello zio, nella nonna che è morta, per esempio. Comunque, Nel corso della mia vita ho apprezzato sempre la musica, ho cercato disperatamente di suonare uno strumento fin da giovane, ma non è stato possibile, la vita non me l'ha permesso. E diciamo che ho approcciato anche alla musicoterapia, questa volta come utente, come diciamo, curato, e devo dire con grandi risultati, per cui il mio grande rispetto per la musicoterapia è venuto proprio sul campo, perché l'ho provata sulla mia pelle. Premesso questo, ho aderito volentieri all'invito di Maria Rita di presentare questo libro, perché suscitava in me una grande curiosità, veramente, e devo dire che mi ha stupito positivamente, ma in maniera davvero inaspettata, perché questo è un libro che a vederlo così non sembra, ma è una miniera di informazioni. Questo è un vero e proprio trattato della musica e di tutti i suoi aspetti. È un approccio alla musica di straordinaria ampiezza, un vero e proprio trattato universale, dico proprio, perché Maria Rita non ha trascurato nessun aspetto del fenomeno musicale, l'ha esaminato da tutti i punti di vista, storici, scientifici, filosofici, psicologici, neurologici, neuropsicologici e sociali. E non sto esagerando, qui ci sono tutti questi capitoli, e quello che andremo a leggere sono tutto, è quello che c'è dentro. Logicamente ho estrapolato alcuni capitoli, alcuni pezzettini, giusto per arrivare a capire il vero senso di quella che è la musicoterapia, perché questo è, credo ancora oggi, nella maggioranza dei casi difficile da capire sul serio. Che sia un libro, diciamo, molto vasto e completo, lo vedremo. Intanto, per il momento, preferirei passare la parola a Maria Rita e vorrei che ci parlasse un pochino di lei, ma non tanto per quanto riguarda gli aspetti che forse conosciamo, quello di violinista della Haydn, con la quale molti l'abbiamo conosciuta, oppure con l'aspetto di psicologa specialista, ma vorrei che ci parlasse un po' di se stessa, proprio come musicoterapeuta e anche come autrice di questo libro. Ecco, buonasera a tutti. Tralasciando il percorso musicale, che è stato molto lungo nella mia vita, logicamente da bambina ho iniziato a studiare musica, però desideravo farlo già da prima di iniziare, perché lo strumento al conservatorio l'ho iniziato a studiare a 10 anni, però prima già comunque ho avuto qualche contatto con la musica, perché nella mia famiglia fortunatamente la musica c'era, anche se i miei genitori non erano musicisti, però ho potuto frequentare, vedere degli spettacoli da molto molto piccola, mi sono rimasti veramente molto impressi, quindi l'opera, oppure i dischi di musica classica che c'erano a casa, che ovviamente mi conquistavano. Credo che questo era proprio la base di tutto quello che poi è venuto dopo. Il fatto che ci sia la musica nelle famiglie è fondamentale, quindi anche nel libro tratto questo, è come un argomento veramente, veramente importante. E poi niente, poi la musica è stata studio, quindi applicazione, anche difficoltà da superare, tante. Poi tutto il percorso dell'orchestra Haydn, che è stato, devo dire, una parola meraviglioso, perché veramente io per tantissimo tempo ho potuto suonare all'interno di una compagine, quindi con altri, e suonare con gli altri è la cosa più bella che ci sia, onestamente, credo. La cosa più gioiosa, più bella in assoluto, e quindi ero dentro e potevo sentire gli altri, potevo sentire la mia musica e potevo soprattutto eseguire, quindi entrare nelle opere dei grandi compositori, vivendoli dal di dentro. Quindi questa esperienza è stata sempre più appagante. Ne parlo nel libro perché in effetti credo che proprio anche poi maturando come persona mi sono resa conto sempre più di quanto fosse importante, quanto fosse bello quello che stavo facendo, ma proprio per il mio rapporto personale con la musica. Quindi chiaramente ogni musicista, quando suona in un concerto con gli altri, ascolta tutti gli altri, sa cosa deve fare perché ha davanti delle note, o comunque deve eseguire qualcosa che va eseguito proprio in quel modo, però ha anche un rapporto con se stesso in quel momento, quindi entra anche nella musica proprio portando il proprio contributo, quindi entrando in profondità anche nelle proprie emozioni. E quindi maturando, quindi crescendo nell'età, io ho apprezzato sempre più questo aspetto di contatto proprio con le emozioni, e mi sono resa conto, veramente una cosa molto, molto importante, di quanta comunicazione ci sia nel fare musica. È una cosa, penso che sia un evento estremamente comunicativo, perché noi abbiamo la possibilità, proprio perché la musica è com'è, cioè la musica ha tutte le potenzialità di cui cerco di trattare nel libro. Ovviamente l'argomento è vastissimo, però dobbiamo pur mettere a fuoco alcuni argomenti, alcune parti proprio importantissime. E quindi la musica ha queste potenzialità di unire, di creare comunicazione tra le persone, perché musica c'è se c'è relazione, praticamente c'è suono, c'è musica, c'è qualcuno che ascolta. La relazione di ascolto è essenziale per fare musica, è proprio questa, che questa relazione di ascolto significa che praticamente noi abbiamo una relazione col pubblico, ad esempio, nel fare la nostra musica, ma abbiamo una relazione anche all'indietro col compositore, perché il compositore, mettiamo un grandissimo, non so, Mozart, Bach, hanno messo nelle loro musiche molto di loro, non erano solo, ovviamente sono opere d'arte, il compositore, cioè il musicista mette le proprie emozioni, mette i propri pensieri anche in musica, perché la grandezza dei grandi musicisti era proprio quella, saper mettere in musica i loro pensieri, il loro modo di essere, la loro vita, la loro vitalità, in, completamente così come loro sapevano fare e avevano questa grande capacità di farlo. Però chi esegue deve cercare di entrare in comunicazione con quello che il compositore desiderava esprimere. Quindi c'è proprio una sintonia che va, in qualche modo va creata, è una comunicazione all'indietro, e dove noi praticamente, quando eseguiamo un brano, dobbiamo anche in un certo senso avere empatia per quello che il compositore ha scritto. Fortunatamente esistono le partiture, quindi tutto è stato scritto. Quello che il compositore desidera, fortunatamente, è stato scritto. L'interprete, appunto, interpreta. Quindi vede dei segni, vede delle parole che indicano il tempo, la gogica, la velocità, il modo anche di suonare tristemente, ad esempio. Gli aggettivi che vengono usati spesso sono aggettivi che riguardano altri campi della vita, non sono aggettivi musicali, ma riguardano ad esempio le emozioni, il modo di, no? Modi di fare. E quindi il rapporto è empatico e si crea questa strana comunicazione all'indietro con se stessi, perché nello stesso tempo, per suonare, per eseguire, bisogna trovare in sé le proprie emozioni da esprimere. Non siamo macchine, e chi suona mette sempre qualcosa di sé, anzi direi mette anche molto di sé chi esegue, chi suona uno strumento. Lo sappiamo bene, non mettersi a nudo quando si suona, per quella volta si soffre anche di qualche timore quando si affronta il pubblico, perché ci si mette a nudo totalmente. E poi c'è la comunicazione col pubblico, è praticamente un passaggio comunicativo importantissimo. Questo è veramente, io sempre più ho potuto, non so, osservare questo fenomeno. Quindi io suonando in quel momento, mi rendevo conto che il pubblico recepiva, anche se noi non abbiamo suonato delle musiche scelte dal pubblico, ma il pubblico ascolta quello che è in programma. Tuttavia, questa musica eseguita soprattutto dal vivo, quindi con un effetto grande di risonanza del suono, che logicamente fa molto molto bene per attivare, no? Muovere i corpi proprio, è come un'onda che arriva al pubblico, alle persone, questo grande suono dell'orchestra, e quindi il pubblico era praticamente catturato, anche il pubblico entra in risonanza con quelle emozioni, in qualche modo trova in sé qualcosa di simile, perché tutti siamo esseri umani, quindi la musica è stata scritta da persone e che hanno le stesse caratteristiche umane che abbiamo noi. C'è una continuità, c'è una grande comunicazione. Scusa, a proposito di ascolto empatico, direi che adesso è proprio il momento di ascoltare le nostre due arpiste. Sì. Che sono Marianna Lazzarini, che è docente di arpa presso l'Istituto Musicale Vivaldi, e Elena Benetello, che è una sua allieva, che ci suoneranno. Un brano irlandese, Due Way From My Window, e poi successivamente questa parte della tradizione irlandese. Grazie. Della bibliografia, qui c'è dentro tutto, è una bibliografia grandiosa, e questo è in relazione a tutti gli argomenti che Maria Rita ha trattato, ed è partita addirittura dalle origini del mondo, dall'origine del cosmo, dal Big Bang, sposando proprio la teoria che ormai è accreditata dell'origine sonora del mondo, no? Il Big Bang in realtà anche il suono della parola ci dice che è stata un'esplosione, un suono, una grande vibrazione. E tutte le particelle che compongono il cosmo, il mondo, sono dotate di questa vibrazione. E le vibrazioni sono sotto sotto della energia. Vibrazione e energia equivale a suono. Quindi ogni corpo, che è composto da particelle, è praticamente un insieme di suoni. Questo è difficile un po' da capire, però un pochino ci ha aiutato Einstein con la sua diciamo formula magica, che ci ha spiegato che la materia, la massa, è uguale all'energia moltiplicato la velocità della luce al quadrato. Quindi cosa ha detto praticamente? Che tra massa, tra materia e energia non c'è praticamente differenza. L'energia è massa, la massa è energia. E questo rapporto è un rapporto oltretutto, diciamo, fluido, nel senso che noi pensiamo e viviamo il mondo come qualche cosa di inanimato, qualche cosa di animato, qualche cosa di emotivo che non sappiamo bene cos'è, ma in realtà sono tutte, diciamo, aspetti della stessa materia, della stessa sostanza. Quindi, diciamo, c'è sempre uno scambio tra, diciamo, energetico nei corpi, anche se non sembra nei corpi inanimati, ma nell'organismo noi sappiamo benissimo come anche il nostro organismo è permeato, attraversato dall'energia. Basta pensare ai raggi X, un'ecografia, un'onda radio che parte chissà da dove, che ci attraversa completamente. E attraversandoci cosa fa? Fa semplicemente qualche cosa sulle cellule, sulle particelle. La fisica delle particelle, anche quelle più piccole, diciamo, ci ha spiegato proprio che è tutto energia. La differenza che c'è tra quelli che noi chiamiamo corpi, materia, e l'energia, diciamo, che noi chiamiamo emozioni, che noi chiamiamo in altro modo, è semplicemente un addensamento diverso di particelle, una concentrazione diversa, una disposizione anche diversa. Ma tra i corpi, le emozioni e il pensiero, anche il pensiero stesso in fondo è uno scambio energetico. Il cervello che pensa lo fa perché sposta dell'energia, non c'è dubbio su questo. E quindi praticamente si crea uno scambio, un dialogo perenne tra la musica e noi, che siamo corpo, ma siamo anche energia, siamo vita. Noi siamo la musica siamo noi. Questo spiega, ma in termini scientifici, in termini, diciamo, di energia molecolare, il significato di questo libro, che logicamente concettualmente è un po' lontano dalla nostra vita quotidiana, però è così. Questo spiega come, e lo vedremo poi nei vari capitoli, se riusciamo a spiegare come la musica poi interagisce sul nostro corpo, sul nostro cervello, sulle nostre emozioni e su tutto il resto. Questa premessa un po', diciamo, di fisica era necessaria proprio per questo. E se Maria Rita vuole commentare qualche cosa, se no andiamo avanti un secondo, ci fermiamo. Sì, brevemente, poiché appunto la vibrazione cioè noi siamo vibrazione, perché chiaramente il nostro corpo è formato per 70% da acqua, no? Liquidi, quindi i liquidi sappiamo che sono mossi. Il suono è un'onda sferica che colpisce in un certo senso i corpi, che va proprio a interagire con il mette in vibrazione. Sappiamo che il suono mette in vibrazione i corpi solidi, i liquidi, l'aria, e viene trasmesso in questo modo, ma colpisce anche il nostro corpo, mette in vibrazione anche il nostro corpo. È possibile quindi che, essendo fatti della stessa natura del suono, quindi possedendo in noi delle cellule che in realtà hanno un loro suono, perché c'è una nuova disciplina che si chiama suonocitologia, che ci dice che le cellule, ogni cellula ha una sua vibrazione, un suo tipo di frequenza, e le cellule diciamo, la malattia si può evidenziare anche da un suono non così armonico delle cellule. Ci sono studiosi che stanno proprio lavorando molto con dei musicisti, degli artisti, proprio in questo senso, per capire come la musica, perché la musica entra e può interagire quindi in una comunicazione con col suono delle nostre cellule. Questo sarebbe una sorta di suonoterapia in un certo senso, no? È quella, ad esempio, che molti di voi magari conoscono, che pratica, io credo anche Emilia, si possa, diciamo, definire così, quella di Emiliano Toso, che propone musica traslazionale, proprio proponendo tipi di musica che vanno a determinate frequenze. Qui utilizza molto una frequenza considerata universale come 732 Hz, considerata curativa, considerata calmante, considerata benefica. E mi ha detto qualcuno che ha partecipato proprio ai suoi, dal vivo, ai suoi incontri, quindi con concerto, che effettivamente si creano delle situazioni, quindi sono concerti molto affollati, tanta gente eccetera, ma tutti hanno una sensazione di grande beneficio, no? da questo godere di questo suono, che quindi può entrare nelle nostre cellule. Prendiamo atto che la musica può mettere in fase, quindi può armonizzarci. Un altro capitolo parla proprio del suono e della musica, e Maria Rita ha analizzato proprio tutti gli aspetti della percezione delle vibrazioni, sin dal concepimento praticamente. Analizza cosa succede nel cervello che sente, quali aree vengono eccitate e da quali aspetti musicali vengono stimolate: il ritmo, la melodia, l'altezza, il timbro dei suoni. E queste varie tipologie eccitano aree del cervello differenti, per cui alla fine possiamo dire che ascoltando musica, o facendo musica, o meglio ancora cantando in coro, si eccitano tutte le aree del cervello, tutti i sistemi neurologici praticamente. Il cervello viene interessato globalmente, e inclusi i circuiti neurologici sottostanti che collegano il cervello al corpo, il sistema simpatico e parasimpatico, quindi anche volontario e non volontario, sono tutti coinvolti dall'ascolto e dalla pratica, dalla musica insomma. La prima cosa che il bambino percepisce sono i rumori del corpo della mamma, del respiro, i movimenti intestinali, eccetera, e poi la voce della madre, che già nel periodo fetale lui percepisce, prima ancora che si formi l'apparato acustico, quindi l'apparato cocleare. Lui non può sentire i suoni, però percepisce le vibrazioni della madre, incomincia a conoscerle. E questo porta al riconoscimento sonoro della madre, che è il primo gradino della relazione madre-feto. E ciò ha una grandissima importanza nello sviluppo, anche motorio, del feto, e arriva ad attivare competenze nel bambino che porta poi al fenomeno dell'attaccamento. Cioè questa è una fase, diciamo, in cui la voce, il suono, la musica della madre ha una grandissima importanza nello sviluppo futuro del bambino. Se vuoi aggiungere qualcosa di questo. Sì, per me è molto importante questo aspetto, questa prima musica. Infatti sta all'inizio del libro, perché lo considero proprio un argomento fondamentale. Cioè la musica nasce prima che noi nasciamo, nasce per noi e in noi prima che noi nasciamo. E tutti, a tutte le latitudini, in tutte le culture e in tutti i tempi abbiamo fatto la stessa esperienza, perché il corpo della madre è sempre stato un corpo della madre. Magari la lingua che parla quella madre è diversa, però i suoni, i parametri del suono, le melodie della voce, tutti abbiamo fatto esperienze simili sempre. E questo è un, diciamo, uno dei, forse dei capisaldi, perché ci fa capire perché la musica è così universale, perché i parametri fondamentali, sappiamo cosa significano questa parola parametri, vuol dire pensare proprio ai costituenti del suono della musica, non so, ritmo, l'armonia, la melodia, ma anche l'intensità del suono, il timbro, le altezze. Queste sono le caratteristiche, no, che si possono trarre dalla musica. Questi sono universali, sono delle, praticamente noi abbiamo la proprietà di riconoscere questi elementi già da prima della nascita. Infatti i bimbi non nati, quindi i feti, come giustamente ha detto il dottor Galassini, già hanno una grande capacità di ascolto dal settimo mese di gravidanza, di ascolto vero e proprio con le orecchie, e di memorizzazione dei suoni. Se ci è stata data, da un punto di vista dell'evoluzione naturale, questa grande capacità, significa che questa ha un'importanza evolutiva per noi. Non è da sottovalutare. E poi ci sono dei filosofi che hanno teorizzato che tutta la musica che seguirà riporterà a quelle prime esperienze, e quindi la musica ci consola a volte, no? Ci contiene, ci dà benessere, anche perché ci riporta al benessere che abbiamo percepito noi nel grembo materno, idealmente. Bene, passiamo brevemente ad un altro capitolo che devo citare perché è di una importanza, beh, come tutto veramente, è l'educazione, il metodo per l'educazione all'ascolto e l'apprendimento della musica nei bambini, no? Perché la musica, dice Maria Rita, può essere imparata in modo naturale se proposta fin dalla prima età, primissima età. Nel libro si analizzano i vari metodi e i relativi autori che insegnano come, quando, da quando, come, in che modo, eccetera. C'è tutto un capitolo che tipo, diciamo, educativo, che per gli addetti è veramente molto interessante. Comunque, diciamo che l'insegnamento precoce, precocissimo della musica può essere paragonato all'insegnamento del linguaggio. Tant'è che anche la musica, se appresa in età infantile, può diventare una sorta di lingua madre e diventa un vero e proprio talento dell'individuo. Dopo no, eh? Dopo. È più difficile, diciamo. No, si dopo può a qualsiasi età. Sì, parleremo dopo degli aspetti neurosensoriali. Prima è meglio, prima si fa è meglio. Comunque, la musica, se appresa in età infantile, può diventare una sorta, diciamo, di talento, un patrimonio del bambino che contribuisce a costruire il carattere, a coltivare il buon gusto, ad entrare in relazione con gli altri, ecco l'aspetto, diciamo, empatico-relazionale. E di particolare rilievo in questo ruolo anche il canto melodico, per questo sul libro si accenna molto spesso a che bisogna far cantare i nostri bambini, bisogna cantare ai bambini, raccontare delle storie cantando. Il canto è una cosa importante, poi farglielo anche praticare da sempre, da subito, perché oltretutto il canto, il ritmo, eccetera, aiuta anche, sviluppa anche l'intelligenza. Adesso qui c'è un neurologo primario che mi contesterà le cose che dico, ma mi becco tutte le mie responsabilità. Ecco, comunque, molti studi affermano che gli effetti positivi dell'educazione musicale si hanno anche a livello di intelligenza. Quindi questo è grande, eh? L'attitudine musicale viene così paragonata alla capacità di pensare, mentre il ritmo è l'elemento che lega la musica al movimento e contribuisce al raggiungimento dell'unione completa tra corpo e mente attraverso la musica. Ecco, questo... Riassumere un capitolo così vasto in poche parole è difficile, però l'importanza di insegnare e diciamo proporre sin da giovanissimi, da primissima infanzia, la musica ai bambini, secondo me è fondamentale. E questo Maria Rita l'ha detto benissimo. Quando vuoi commentare, dopo. Sì, do molta importanza al canto, ne parlo in vari punti del libro, perché il canto è il primo mezzo di comunicazione tra mamma e bambino, quindi la voce della mamma è la voce che canta soprattutto, è quella importante. E più gli studi ci hanno dimostrato che la voce cantata della mamma è più ascoltata della voce parlata. Vuol dire che il canto è veramente più fisiologico per i bambini, cioè più naturale, perché cattura proprio la melodia, cattura gli elementi musicali della voce, no? E poi verrà, si imparerà il linguaggio, poi inizierà a essere compreso anche il linguaggio, però inizialmente è il canto che è più importante, e il canto è anche importante come primo metodo di educazione alla musica e viene utilizzato infatti nei metodi più importanti che cito nel libro, che sono metodi di educazione tipo a partire dai 3 anni, no? Si può insegnare la musica, non sarà subito strumento, sarà canto. Col canto si possono fare esperienze di ritmo, appunto, come diceva giustamente Gianni, di ritmo, di melodia, e anche usare comunque la parola, quindi è una stimolazione anche del parlato, se vogliamo, no? E poi le due cose, canto, musica, linguaggio. Il canto viene elaborato, sarà comunque un patrimonio per la persona a tutte le età, fino a 100 anni, il saper cantare, cioè abbiamo avuto esperienze, sono citate tante esperienze così, di persone che hanno perso il linguaggio per degli accidenti neurologici, quindi potrebbero essere degli ictus piuttosto che qualcosa di simile, e quindi hanno perso proprio la facoltà della parola, tuttavia riescono ancora a cantare perfettamente. E queste aree sono vicine nel nostro cervello, vanno coltivate tutte e due, secondo me. Poi invito a cantare anche gli adulti, sempre, il canto è sempre bellissimo, perché il canto va proprio a stimolare le aree della ricompensa, del piacere. Quindi noi cantiamo proprio non quando siamo contenti, ma proprio diventiamo contenti, diventiamo più felici nel momento in cui noi usiamo la nostra voce col canto. Bene, prego. Sì, infatti, volevo dire che adesso è il momento di ascoltare un altro pezzo. Se volesse intervenire è sempre il benvenuto. Comunque alla fine possiamo anche soffermarci ad esplorare le domande che eventualmente fossero emerse. Adesso vorrei parlare di qualche aspetto neuroscientifico, che è un argomento piuttosto tecnico, ostico, che però io vorrei affrontare bene perché è la premessa per capire la musicoterapia alla fin fine, perché se non capiamo come funziona bene il nostro cervello da questo punto di vista, è difficile spiegarci come mai la musicoterapia può avere degli effetti così efficaci e terapeutici sull'organismo umano. Il concetto di plasticità cerebrale è un concetto che dovremmo fare conto, perché è un'attività che massima nel bambino e nel giovane, purtroppo con l'età si perde, anche se gli ottimisti dicono che neanche nell'anziano si perde del tutto. E comunque è quel fenomeno per cui il nostro cervello, con l'apprendimento, con l'esperienza, incamera e fa sue delle nozioni e degli strumenti che gli permettono di modificare il successivo funzionamento del cervello. Cioè, in pratica, se noi vediamo qualche cosa, incameriamo, vediamo per esempio la figura di un soggetto che scia, non dico che noi dopo possiamo andare a metterci gli sci e veniamo giù come tomba, però sicuramente il nostro cervello ha incamerato degli strumenti, dei movimenti, ha elaborato e ha provato, logicamente a livello cerebrale, non certo a livello muscolare, ma forse anche a livello muscolare, quel tipo di movimento, per cui domani che andrà a provare a sciare ha già avuto questa esperienza. Ma non solo, le esperienze che lui acquisisce sono esperienze che poi gli permettono di lavorare in maniera diversa e migliore, quindi tutto quello che noi acquisiamo si somma praticamente. Il nostro cervello funziona come un algoritmo che continua ad imparare dalle esperienze ed acquisisce sempre così maggiori informazioni e sempre maggiori capacità di utilizzo delle stesse. E qui viene l'altro concetto importantissimo, che sono i neuroni a specchio, che sono proprio quei neuroni che permettono di imparare una funzione motoria, ma vedremo non solo motoria, in maniera automatica ed inconscia, per il solo fatto di averla vista, per semplice imitazione, perché ne abbiamo avuto esperienza. E questi neuroni a specchio cosa fanno? Permettono di cogliere non solo gli aspetti motori, ma anche aspetti relazionali, aspetti emozionali. Quando noi vediamo o sentiamo o viviamo comunque l'esperienza di un'emozione, la facciamo propria e questi neuroni a specchio vanno a decitare determinate zone, determinate cellule del